sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Recessione, secondo trimestre di PIL in calo, meno 0,9% rispetto ad un anno fa. E oggi i vertici della politica e dell'economia mondiale si incontrano a Washington per cercare una soluzione alla crisi. I migliaia in piazza a Roma contro Italia all'università, capisco ma non cedo, dice la Gelmini. Dopo la rabbia delle parti civili per la sentenza sul G8 parla il sindaco di Genova Vincenzi, ci vuole un'inchiesta parlamentare. E un'altra decisione della giustizia fa discutere l'Italia, quella su Eluana Englaro, ora una legge, chiede il PD. Due presidenti a termine, Giovanni Maria Flick alla guida della Corte Costituzionale fino a febbraio, Villari alla guida della Vigilanza Rai solo fino a lunedì. Una buona giornata da Simone Spezia e da Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. Italia dunque tecnicamente in recessione. Eh sì, perché per il secondo trimestre consecutivo il PIL è in calo. Infatti nel terzo trimestre del 2008 il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, dello 0,9% rispetto ad un anno fa. La notizia della recessione tecnica è stata diffusa dall'Istat nel giorno nel quale a Washington stanno arrivando i capi di Stato e di Governo per il G20 sulla crisi, ce ne parla l'inviato. Tutti a cena da George W. Bush, ma il menù di stasera alla Casa Bianca, recessione e instabilità dei mercati finanziari, rischia di essere indigesto per i capi di Stato e di Governo dei grandi paesi industriali e delle principali economie emergenti riuniti nel gruppo dei 20. I dati di queste ultime ore confermano che Stati Uniti, Europa e Giappone sono entrati tutti insieme appassionatamente in recessione e che anche i maggiori paesi emergenti come Brasile, India e Cina subiscono una brusca frenata della crescita. Il G20 proporrà una ricetta di stimolo fiscale alle economie, più spesa pubblica e meno tasse, perlomeno per quei paesi che se lo possono permettere. Ma il vertice sosterrà anche la riscrittura delle regole per la finanza globale per cercare di contenere gli effetti della crisi in corso e possibilmente evitarne altre di portata così devastante per i mercati e per le economie. Un ruolo centrale tocca al Financial Stability Forum, presieduto dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che riferirà ai leader dei 20 del lavoro avviato già da qualche mese per rafforzare il sistema finanziario internazionale. L'Europa ha fretta, vuole un nuovo quadro di regole in 100 giorni, Bush un po' meno. L'America comunque dovrà aspettare che alla Casa Bianca si insedi il prossimo inquilino, Barack Obama. Alessandro Merli, GR24, il sole 24 ore, Washington. E torneremo a parlare della crisi, nello specifico della recessione tecnica dell'Italia alle 13:15 con l'economista Mario De Aglio. Sciopero dell'università oggi in tutta Italia con la manifestazione principale a Roma. Andrea Viali, che cosa sta succedendo? Sì Simone, sta succedendo che la manifestazione è in pieno svolgimento e i cortei stanno ancora sfilando per le vie del centro con ovvie ripercussioni sul traffico. I tre cortei si uniranno tutti a Piazza Navona, due cortei sono degli studenti, uno è partito dall'Università La Sapienza, l'altro dalla Piramide. E al terzo corteo partecipano invece ricercatori e docenti. Questo corteo è stato organizzato dai sindacati, ma soltanto, lo ricordiamo, dalla CGIL e dalla UIL, perché CISL e SNALS, dopo l'incontro in settimana con il ministro, hanno deciso, con il ministro dell'istruzione Gelmini, hanno deciso di rinunciare a questa protesta. Protesta dunque, dicevamo, tre cortei ai quali secondo gli organizzatori parteciperanno 100.000 persone che sono naturalmente arrivate a Roma da tutta Italia, porteranno la loro protesta a Piazza Navona, come dicevamo, a due passi dal Senato. In questo momento io mi trovo a Piazza Navona, dove è arrivato solamente il corteo dei sindacati, aspettiamo quindi gli studenti. Ecco Andrea, vogliamo anche ricordare le motivazioni di questa protesta? Sì, il mondo dell'università protesta soprattutto contro i tagli previsti dalla legge 133, ma anche contro la possibilità di trasformare gli atenei in fondazioni. Sono in pratica due elementi che sommati insieme costringerebbero di fatto le università a privatizzarsi, questo sostengono i manifestanti, che invece, secondo i quali invece le università devono restare pubbliche, statali. Ma sui motivi di questa protesta la nostra Vanessa Colangiuli stamattina ha sentito le ragioni di alcuni ricercatori precari in particolare. Noi siamo qui per dire che bisogna credere nella ricerca. Chiediamo quindi al ministro Gelmini, a Brunetta, a tutto il governo Berlusconi di credere in noi, perché i soldi investiti nella ricerca sono soldi che come investire, puntare dei soldi su un cavallo vincente. Pensavamo di ricoprire, d'accordo con, già d'accordo con il comune, la piazza più grande di Bologna, la piazza maggiore, con le nostre foto, pronte per essere calpestate come attualmente la nostra ricerca rischia di essere. Sono dottorando con una borsa e poi il futuro, io spererei di rimanere in Italia, mi piacerebbe tanto, però mi sa che dovrò finire all'estero. Cosa c'è scritto sul suo cartello? Lavoratori usa e getta. Dal 1 gennaio 2009 saremo tutti per strada in pratica. Sia uno Stato che si inventa mille modi per chiamare dei lavoratori e poi ci butta fuori. Lei è un ricercatore precario? No, io non sono precaria, sono ricercatore del CNR. Però nonostante quello sono preoccupata per il futuro, perché non ci sarà futuro per i giovani che entrano ora, non ci sarà futuro anche per noi, per il prosieguo della nostra carriera e soprattutto per la nostra ricerca giornaliera, quindi no ai tagli. Ale, ale, ale, siamo capitani di vettura e non ne possiamo più, fannullone sarai tu, e sarai tu, e fannullone sarai tu, Brunetta fannullone, ale ale ale. E queste erano le voci degli studenti che fanno sapere proprio in questi minuti di essere in 200.000, questa è appunto la voce degli organizzatori. Nel frattempo c'è anche la replica preventiva in realtà del ministro dell'istruzione Gelmini, che dice: a questi ragazzi dico che capisco il loro disagio e che la loro preoccupazione è anche la mia, sto dalla loro parte, ma insomma di fatto il ministro non cede. La sentenza sta facendo discutere. Per l'irruzione nella scuola di Diaz a Genova durante il G8 sono stati condannati i poliziotti che materialmente parteciparono al blitz e sistemarono le molotov nel cortile per incolpare i manifestanti. Assolti invece i dirigenti che, secondo l'accusa, ordinarono l'azione e firmarono i falsi verbali. Si torna a parlare di una commissione d'inchiesta parlamentare. Lo fa il sindaco di Genova, Marta Vincenzi. L'ha intervistata poco fa Cristina Carpinelli. Nella mia, diciamo, posizione non è certo quella di smontare una verità tipo giudiziario, che però mi sembra di poter dire che questi processi hanno messo in luce alcune responsabilità che è apparso evidente, come in questo caso alla Diaz le Molotov siano state portate e non ci fossero, ma non hanno chiarito l'insieme delle responsabilità, quella che viene definita poi genericamente la catena di comando, no? Intorno alla quale poi si sono determinate le decisioni e sono avvenute davvero i fatti. Per questo lei poi di fatto sta chiedendo, e lo sta chiedendo anche Pericu, che venga istituita un'inchiesta parlamentare? Sì, l'ho chiesto fin dall'inizio. Certo, sarebbe stato meglio farla 7 anni fa, la richiedo adesso come sindaco. Il nostro paese, questa città, se ne fa interprete, credo correttamente, ha bisogno anche di poter dire al mondo che siamo una terra di civiltà giuridica e democratica. E di un'altra sentenza che sta facendo discutere parleremo fra poco, è la sentenza della Cassazione che ha definitivamente sancito la possibilità di interrompere l'alimentazione forzata per Eluana Englaro, la ragazza in coma vegetativo da 17 anni. Cercheremo di capire se questa sentenza avrà effetto anche su altri casi. Parliamo d'altro adesso, di un argomento che tocchiamo, devo dire, abbastanza raramente, ossia i reali di Inghilterra, che in genere, devo essere sincero, a me non appassiona un granché. No, neanche a me, costituiscono però il centro del gossip in genere per chi è interessato. Però oggi è arrivata anche una notizia, diciamo, più seria, un sondaggio secondo il quale la maggioranza dei britannici vorrebbe che fosse il principe Carlo e non suo figlio William a prendere il posto di Elisabetta II. Insomma, questa è un'inversione di tendenza rispetto ai sondaggi che erano stati pubblicati negli anni scorsi. Sì, e poi c'è un'altra notizia oggi, che il principe Carlo è un erede al trono ben vecchietto, insomma. Sì, sarà stato un bel regalo di compleanno il risultato di questo sondaggio. 60 anni compie oggi il principe Carlo. Erede al trono da quando aveva 3 anni e ora ne compie 60. Carlo d'Inghilterra diventa il primo principe di Galles ad arrivare a quell'età senza essere ancora diventato re. Eppure non è mai sembrato davvero impaziente. Forse l'aveva capito da tempo che non sarebbe diventato sovrano tanto presto e si è comunque dato da fare. Non ci riferiamo alla vita sentimentale. In fin dei conti, due matrimoni, uno dei quali con l'amante storica, sembrano quasi normali ormai persino nelle famiglie reali. Ma Carlo ha più o meno lavorato davvero. The Pride of Britain Awards are, I believe, a unique way to celebrate some truly remarkable people. Con il suo Prince's Trust, un'organizzazione caritatevole fondata nel 1976, ha aiutato migliaia di ragazzi sfortunati a farsi largo nella vita. Milita da 25 anni a favore dell'agricoltura biologica. La sua linea di prodotti alimentari, Dutch Originals, è uno dei più diffusi marchi di cibi biologici del regno. He is the Green Prince. A gentleman farmer, passionate about the land and not afraid to speak his mind. What we should be talking about is food security, not food production. La sua adesione alla natura è arrivata a farlo schierare contro gli OGM in favore delle terapie alternative anziché della medicina tradizionale, attirandosi una valanga di critiche da parte della comunità medica e scientifica. Un uomo indipendente, insomma, con un unico padrone, l'onnipresente Camilla, che ha anche diretto tutti i festeggiamenti per il compleanno. Il gossip addirittura dice che Riccardo Muti, prescelto per dirigere la Philharmonic Orchestra in onore di Carlo, avrebbe gettato la spugna, proprio spazientito dai ripetuti tentativi di Camilla di modificare continuamente il programma. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Italia in recessione, l'Istat ha comunicato questa mattina le stime preliminari del PIL del terzo trimestre 2008, sceso di mezzo punto percentuale rispetto al trimestre precedente e dello 0,9 rispetto allo stesso trimestre 2007. Ora sacrifici, dice Napolitano, la presidente di Confindustria Marcegaglia, non farsi prendere dal panico. E mentre si apre il G20 a Washington, l'Unione Europea ha dato il via libera al decreto legge del governo italiano per garantire il rifinanziamento delle banche colpite dalla crisi. Il provvedimento, spiega Bruxelles, è uno strumento adeguato. Tre cortei nelle strade di Roma contro Italia all'università. Siamo 200.000, dicono gli organizzatori. Capisco i ragazzi, replica la Gelmini, ma vado avanti. La verità politica non c'è, per questo è ancora necessaria una commissione d'inchiesta. Così il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, sulle violenze alla scuola Diaz durante il G8. Ieri, lo ricordiamo, è arrivata la sentenza. Condannati i poliziotti che fecero il blitz, assolti gli alti funzionari della polizia e del Ministero dell'Interno. Giovanni Maria Flick è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Succede a Franco Bile, il suo mandato scadrà a febbraio. Lo dicevamo in apertura, l'Italia è tecnicamente in recessione, anche se fino a qualche tempo fa la teoria economica voleva tre trimestri consecutivi di prodotto interno lordo in calo per dare appunto questa definizione di recessione, oggi ne bastano due. E dunque, ecco i dati Istat. Nel terzo trimestre del 2008 il PIL italiano è calato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% rispetto al terzo trimestre 2007. Per quanto riguarda il resto d'Europa, il PIL della zona euro nel terzo trimestre sempre di quest'anno è in calo dello 0,2%, così come nel secondo. Buongiorno Mario De Aglio. Buongiorno a lei. Docente di economia internazionale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino. Professore, innanzitutto, quanto c'è di italiano e quanto di internazionale nella nostra crisi, nella nostra recessione? Sono due cose un po' diverse, perché a questa recessione l'Italia arriva dopo un lungo periodo di stagnazione che sostanzialmente con un intervallo di 18 mesi risale al 2001, mentre il resto d'Europa ci arriva da un periodo abbastanza lungo, cioè tre anni e mezzo di moderata espansione. Quindi la recessione da noi arriva su un corpo malato, per gli altri su un corpo moderatamente sano. Quanto sta influenzando anche questa crisi finanziaria? Si parla spesso della possibilità di trasmettere la crisi dal mondo appunto della finanza all'economia reale, ma effettivamente sta avvenendo così? Direi che comincia ad avvenire, non sappiamo quanto effettivamente inciderà, ma nell'ultimo mese e mezzo effettivamente gli stimoli negativi sono passati in tutto il mondo dalla finanza all'economia reale. Da noi ancora relativamente poco, negli Stati Uniti in maniera da collasso. Professore, nel momento nel quale stiamo parlando, probabilmente in realtà i leader mondiali stanno ancora dormendo, però insomma si riunirà in giornata, inizieranno a riunire i vertici dei paesi del G20 per cercare una soluzione. Quello che sta emergendo in queste ore è fondamentalmente spesa pubblica e abbassamento dei tassi. Insomma, tornano le teorie keynesiane? Beh sì, direi che è l'unica medicina che serve in caso di emergenza, però ha molte controindicazioni, cioè la spesa pubblica richiede tempo per essere fatta e forse è meglio detassare che spendere pubblicamente in questi casi, cioè lasciare più soldi in mano alla gente, soprattutto ai redditi bassi, perché così li spendono e tengono a galla l'economia. Direi che questa è ancora il vecchio rimedio, non so se basterà di fronte a una crisi che sta avanzando con estrema rapidità e violenza, non in Italia, ma insomma, se guardiamo gli Stati Uniti, c'è veramente da rimanere allibiti. Ecco, lei dice non so se basterà, tra l'altro la domanda tormentone un po' di questi mesi, delle ultime settimane, e non possiamo sottrarci naturalmente dal farla anche a lei, tutti si chiedono quanto durerà. Molto candidamente e onestamente non possiamo dirlo. Se io dovessi esprimere comunque un'opinione, direi molto a lungo. Io sono tra quelli che pensano che comunque condizioni depresse rimarranno, parlo sempre come inizio dell'economia americana, nell'economia americana per almeno 4-5 anni, cioè tutta la presidenza di Obama, perché lì hanno dei guasti strutturali seri. Noi speriamo di cavarcela con meno, dipende abbastanza da noi, continuiamo a parlare di spese pubbliche, però il patto di stabilità non l'abbiamo ancora toccato, bisogna ritoccarlo un pochino, da noi potremmo essere su una stabilizzazione con moderato rialzo forse nel giro di 12-18 mesi. Quindi professore, oggi parliamo di recessione, quello che lei vede per i prossimi mesi e a questo punto per i prossimi anni è una vera e propria depressione. Vedo una depressione, cioè la necessità di un profondo cambiamento strutturale negli Stati Uniti. Il resto del mondo potrebbe cavarsela con meno, perché non ha bisogno del cambiamento strutturale che gli Stati Uniti invece devono fare. Grazie a Mario Deaglio, docente di economia internazionale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino. Buona giornata. E sulla notizia della recessione tecnica, Simone, stanno arrivando le reazioni. Sì, è arrivata poco fa quella della presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Sentiamola. Per quanto riguarda le imprese, lavorare per ridurre l'IRAP, aiutare le imprese a capitalizzarsi, quindi magari con strumenti quali la detassazione degli utili reinvestiti o di apporti di capitale, rivalutazione dei beni che potrebbe aiutare a rendere i bilanci delle imprese migliori, quindi ottenere migliore credito, certamente lavorare per non far mancare il credito alle imprese, su questo abbiamo anche un tavolo aperto con l'ABI e noi chiediamo anche che sui redditi bassi ci sia comunque un sostegno di natura fiscale. Lei si aspetta ancora un trimestre o più in recessione tecnica? È difficile dirlo perché purtroppo nessuno è in grado di fare previsioni in questo momento di grande incertezza, certo abbiamo davanti ancora dei mesi difficili, però appunto la situazione poi ritornerà alla normalità. E questo era il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al microfono di Marco Lignana. Sì, tra l'altro Alessandra, su questo tema è intervenuto oggi anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha detto si impongono rigore e sacrifici. Ora andiamo in Iraq, ci spostiamo a Baghdad. Adib Fateh Ali ci racconta un paese fatto di corruzione. $5 USA per sbrigare all'anagrafe una pratica per la carta d'identità. 20 per il ritiro dall'obitorio della salma di un congiunto. Un malato terminale che vuole avere le lenzuole pulite in un letto d'ospedale deve pagare una cifra pari a 25 biglietti verdi americani. Le cifre non sono per bolli e servizi, quelli si pagano a parte. Si tratta del listino prezzi in nero applicato negli enti pubblici di Baghdad, da funzionari che senza il minimo scrupolo infilano in tasca con una mano lesta l'ikramia, che in lingua locale significa gesto di generosità. Che la corruzione fosse diffusa ad alto livello in Iraq era un dato assodato. Due ex ministri accusati di avere incassato tangenti milionarie sono scappati dal paese. Lo stesso presidente della commissione trasparenza è stato rinviato a giudizio perché in odor di tangenti, ma che il fenomeno sia così dilagante anche ai livelli più bassi dell'amministrazione pubblica forse non lo si immaginava. Siamo entrati entrati in un ospedale, in un obitorio e nell'anagrafe di Baghdad. Abbiamo visto che un iracheno, tornato in patria dopo 10 anni passati da esiliato in Germania, per produrre una carta d'identità di cui ha perfettamente diritto, ha dovuto pagare $500 per ovviare alla mancanza di un documento, scoprendo poi che anche un kamikaze arabo di Al-Qaeda potrebbe fare lo stesso e diventare così un cittadino di questo paese, per poi magari trovarlo in giro per il mondo con un regolarissimo passaporto iracheno. Adib Fatah Ali, GR24, Sole 24 Ore, Baghdad. Torniamo in Italia e sentiamo dove andiamo oggi, in quale posto d'Italia, con il nostro gastronauta Davide Paolini. Oggi vi porto per una cena a Bagno di Romagna. Qui c'è un ristorante importante, il ristorante Paolo Teverini dell'hotel Tosco Romagnolo. Paolo Teverini è uno dei rappresentanti di punta della cucina del centro Italia, ha lanciato moltissimi prodotti, a cominciare dal formaggio di Fossa, ma soprattutto fa una cucina molto particolare, sua, personale. Per esempio una tartare di pesce azzurro, o meglio una tartare di canocchie, è l'inventore un po' della canocchia cruda. Oppure ancora si possono, quando sono disponibili, il risotto coi gamberi di fiume, e ancora cubetti di pasta fresca, come dicevo prima, addirittura con funghi e tartufi, e poi anche una terrina di foie gras in spiedino con mango e il filetto di chianina con salsa al vino brûlé. Si trova dell'ottimo pane da Teverini, a differenza di molti ristoranti. Perché? Perché in questa zona ci sono degli ottimi fornai che usano ancora forno legna e lievito madre. E si beve altrettanto bene, perché Paolo, oltre ad essere un ottimo cuoco, è anche un discreto sommelier, anzi un bravissimo sommelier. Allora lo ripeto, ristorante Paolo Teverini, Bagno di Romagna e provincia di Forlì Cesena. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Italia in recessione, l'Istat ha comunicato questa mattina le stime preliminari del PIL del terzo trimestre 2008. Il calo è dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, dello 0,9% rispetto allo stesso trimestre 2007. Rigore e sacrifici, dice Napolitano. La presidente di Confindustria Marcegaglia, non dobbiamo farci prendere dal panico. E mentre si apre il G20 a Washington, l'Unione Europea ha dato il via libera al decreto legge varato dal governo italiano per garantire il rifinanziamento delle banche colpite dalla crisi. Il provvedimento, spiega Bruxelles, è uno strumento adeguato. Tre cortei nelle strade di Roma contro i tagli all'università, siamo a 200.000, dicono gli organizzatori. Capisco i ragazzi, dice il ministro Gelmini, ma vado avanti. All'Italia una ventina i voli già cancellati, altri 40 potrebbero essere annullati entro stasera. G8, ci vuole una commissione d'inchiesta, così il sindaco di Genova Marta Vincenzi sulle violenze alla scuola Diaz. Ieri è arrivata la sentenza, condannati i poliziotti che fecero il blitz, assolti gli alti funzionari della polizia e del Ministero dell'Interno. Giovanni Maria Flick è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Il suo mandato scadrà però già a febbraio. Dati negativi sul prodotto interno lordo, ma non solo. Arrivano dati negativi anche sulle immatricolazioni auto. A dir la verità, non è il primo mese che accade. Alessandra, quali sono? Sì, riguardano innanzitutto tutta l'Europa, sono stati forniti dall'ACEA, l'associazione che raccoglie le aziende automobilistiche del vecchio continente. Dunque, ad ottobre immatricolazioni in calo del 14,5% su base annua. Anche nei primi 10 mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo 2007, si è registrato un rallentamento, in questo caso del 5,4%. Il gruppo Fiat ne beneficia in borsa, come avete sentito poco fa, fa meglio del mercato, segnando un calo dell'8,3% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Nei primi 10 mesi dell'anno il passivo è stato del 3,8%. Nella prima parte di XL vi abbiamo parlato delle proteste degli universitari, sia dei docenti, dei ricercatori, ma anche degli studenti, che sono oggi in piazza appunto contro i tagli previsti dalla legge 133. Ora torniamo a parlare di studenti, ma lo facciamo in un altro modo, Simone. Sì, lo facciamo andando ad Orienta Giovani, è in corso a Genova ed è una manifestazione che serve a guidare appunto i ragazzi verso il mondo dell'università e il mondo del lavoro. Sentiamo. L'Italia ha un disperato bisogno di tecnici, ma scuole e facoltà scientifiche vengono ancora snobbate dai giovani. A dirlo è Confindustria, che parla di una vera e propria situazione di emergenza. Mentre la domanda di tecnici da parte del mondo del lavoro è passata dal 15,2% del 98 al 21,7% del 2006, l'offerta, ovvero il numero di diplomati tecnici, è in costante calo. Nel 2006-2007 siamo tornati ai livelli della metà degli anni 80. Il biennio di svolta è il 2003-2004, quando il numero di iscritti ai licei ha superato per la prima volta quello degli istituti. I presupposti per invertire la tendenza, però, ci sono, come sottolinea Gianfelice Rocca, vicepresidente Confindustria per l'Education. L'Italia ormai ha il 40% di laureati sui giovani, cioè è un paese, uno dei più alti paesi dell'OCSE, quindi è cambiata moltissimo. Noi abbiamo il 10% dei ragazzi che sono oggi laureati in materie tecnico-scientifiche contro il 7% della Germania. E il mio messaggio ai giovani è che sostanzialmente si apre un'incredibile prospettiva, perché finisce il baby boom, oggi va in pensione quella grande generazione, sta andando in pensione quella grande generazione che è stata la nostra generazione e che progressivamente esce dalle università, dalle scuole, dal mondo del lavoro. L'inversione di marcia parte dalle facoltà di matematica, fisica e chimica. Dopo il minimo storico del 2000-2001 c'è una ripresa delle immatricolazioni. Nel complesso, però, i laureati sia tecnici che scientifici sul totale dei neodottori sono ancora al 23,6%, poco sotto la media dei paesi OCSE. Marco Lignana, GR24, Il Sole 24 Ore, Genova. Anche oggi cancellazioni di voli all'Italia e ritardi su tutto il traffico aereo. Al momento una ventina i voli cancellati, ma secondo le previsioni in tutta la giornata si arriverà complessivamente a 60 cancellazioni. E oggi ci sarà l'ultimo incontro tra la CAI, la compagnia aerea italiana, CGL, CISL, Willy e UGL, che dovrebbe portare alla firma definitiva ai criteri di selezione e assunzione il tipo di contratto da applicare ai dipendenti della nuova Alitalia. Accordo al quale non hanno aderito i sindacati autonomi di piloti e assistenti di volo e contro il quale stanno protestando. Stando appunto con lo sciopero bianco i cui risultati vi abbiamo appena riferito. Ma se in Italia ci sono i problemi legati al traffico aereo di Alitalia, in Francia non se la passano mica tanto meglio. Air France, quello che sarebbe dovuto essere uno dei partner e forse lo sarà della nuova compagnia italiana. Giulia Crivelli, sì, che cosa buongiorno. Si dice su Air France? Buongiorno, Le Figaro titola Air France, due punti, lo sciopero ingiustificabile. Chiarissima la presa di posizione di Le Figaro, che è un quotidiano molto vicino alle posizioni del governo. Quello che Le Figaro chiama il pretesto di questo sciopero, che durerà 4 giorni e costerà, si calcola, 100 milioni di euro a Air France, è che il governo vuole innalzare l'età pensionabile anche per i piloti da 60 a 65 anni. Secondo Le Figaro è solo un pretesto, perché in realtà per i piloti di Air France cambierebbe poco, lo dice Spinetta, intervistato da Le Figaro, e in ogni caso lo sciopero per ora non è assolutamente stato revocato, durerà fino a lunedì a mezzanotte e creerà moltissimi disagi, si calcola che la metà dei voli Air France saranno cancellati. Giulia, abbiamo dato poco fa i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa. Le cose vanno male in Europa, ma in realtà negli Stati Uniti vanno molto peggio. Sì, tra l'altro le case automobilistiche statunitensi sono in crisi, direi, ancora da prima di quelle europee, ancora da prima di questa recessione. Ora il New York Times titola "Vacilla il piano di salvataggio delle case automobilistiche". I democratici, prima delle elezioni, quasi compatti, avevano chiesto questo piano di salvataggio perché ritenevano ingiustificato salvare per esempio alcune banche e non i colossi dell'automobile, visto anche il numero di persone coinvolte come dipendenti, però adesso un po' per questo nuovo vento che soffia di dare a tutti la responsabilità degli errori manageriali, questo piano di salvataggio, secondo il New York Times, anche dopo il rinnovo del congresso, che ora sappiamo dopo le elezioni è molto più democratico, paradossalmente potrebbe essere più difficile. Quindi si continuerà a parlarne, ci sono appunto i posti di lavoro in ballo, tra l'altro in zone come il Midwest, dove tra l'altro Obama è molto forte, quindi si vedrà insomma quale delle varie posizioni in campo prevarrà, però non è più sicuro come prima delle elezioni, questa è la convinzione del New York Times. I problemi dell'industria automobilistica, Giulia, però riguardano anche altri paesi? Sì, tra l'altro è interessante vedere come la globalizzazione appunto anche in questo caso cambia completamente gli scenari. L'Economist ha un inserto di 14 pagine sul mercato dell'auto nei paesi emergenti, perché perché se da una parte la Cina fino a poco tempo fa era, tanto per cambiare, il paese che avrebbe potuto salvare le sorti delle case automobilistiche, adesso anche in un paese come la Cina il mercato rallenta. Sta succedendo per tutti i prodotti, tutti pensavano appunto di salvarsi col mercato cinese e probabilmente non sarà più così, perché appunto la globalizzazione fa sì che anche una recessione diventi molto più velocemente di quanto forse tutti crediamo, per l'appunto globale. Brevissimamente, Giulia, la copertina dell'Economist, questo... complicatissimo disegno, e il titolo è Redesigning Global Finance, è come una specie di alambicco pieno di piccoli omini che sarebbero degli scienziati, la palla che gira su questo grande meccanismo è il mondo, e il senso è appunto che da una parte il Fondo Monetario Internazionale, magari rifacendosi a Bretton Woods e con l'aiuto del WTO, riescano a trovare, ma dal disegno sembra un affare molto complicato, sì, un nuovo assetto per il controllo, esatto, della finanza. Esatto. Ridisegnare la finanza globale fosse facile. Grazie Giulia Crivelli, buona giornata. Il secolo del jazz, arte, cinema, musica e fotografia da Picasso a Basquiat. Questo è il titolo di uno dei grandi eventi della stagione di mostre organizzate al MART di Rovereto in Trentino. L'esposizione si inaugura domani e si chiuderà il 15 febbraio del 2009, è dedicata al tema della relazione tra arte, musica e tra arte e jazz, appunto. Un genere straordinariamente innovativo che ha rivoluzionato i canoni tradizionali della musica. Il curatore di questa esposizione, Daniel Sotif, l'ho intervistato, Adriana Fracchia. Il jazz ha avuto degli effetti molto notevoli in tutti gli altri campi della cultura, cioè nella pittura, nel cinema, nella letteratura, nel fumetto, un po' quasi tutti i campi della cultura del XX secolo. E così, diciamo, 10 anni fa, quando ero ancora direttore al Pompidou, mi sono detto: un giorno faccio una mostra che verifichi questa ipotesi, e così si vede che ogni tanto i sogni si realizzano. Quindi questo sogno che diventato realtà, che cosa permetterà di vedere a chi verrà a visitarla? Ma allora permetterà di vedere veramente tutta una lettura del XX secolo, molte pitture importanti, inizia con una magnifica pittura di Theo van Doesburg che è dedicata al ragtime, una musica prima del jazz, poi si arriva alla fine del secolo con delle pitture di Basquiat, artisti così molto noti, ma sulla strada si incontra Mondrian, si incontra Matisse, incontrano dei pittori meno noti in Europa, americani e qualcuno anche afroamericano, e quindi non faccio l'elenco di tutti gli artisti che sono nella mostra, ma veramente c'è una bella scelta. Si vede che il jazz ha proprio attraversato tutto il secolo sotto dei colori diversi, con dei toni diversi, ed è questo che ho voluto fare vedere in questa mostra. Sono le 13:45 minuti, questo è il GR Extra Large, le notizie della giornata. Italia in recessione, l'Istat ha comunicato questa mattina le stime preliminari del PIL del terzo trimestre 2008, sceso dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, dello 0,9% rispetto allo stesso trimestre 2007. Rigore e sacrifici, dice Napolitano. La presidente di Confindustria Marcegaglia, non farsi prendere dal panico. E mentre si apre il G20 a Washington, l'Unione Europea ha dato il via libera al decreto legge varato dal governo italiano per garantire il rifinanziamento delle banche colpite dalla crisi. Il provvedimento, spiega Bruxelles, è uno strumento adeguato. Tre cortei nelle strade di Roma contro Italia all'università, siamo 200.000, dicono gli organizzatori. Capisco i ragazzi, dice il ministro Gelmini, ma vado avanti. All'Italia una ventina i voli già cancellati, altri 40 potrebbero essere annullati entro stasera. G8, ci vuole una commissione d'inchiesta, così il sindaco di Genova Marta Vincenzi sulle violenze alla scuola Diaz. Ieri è arrivata la sentenza, condannati i poliziotti che fecero il blitz, assolti gli alti funzionari della polizia e del Ministero dell'Interno. Giovanni Maria Flick è il nuovo presidente della Corte Costituzionale, succede a Franco Bile, il suo mandato scadrà a febbraio. La notizia è arrivata ieri sera, insomma ve ne abbiamo parlato a lungo. Sul caso Englaro la Cassazione ha respinto il ricorso della Procura Generale e ha confermato dunque la sentenza precedente, quella dell'ottobre 2007. Quindi è possibile interrompere l'alimentazione forzata per la donna in coma vegetativo permanente da 17 anni. È stata così messa la parola fine ad una vicenda giudiziaria che dura da oltre 10 anni. Ma quali potrebbero essere gli effetti giuridici di questa sentenza e quali eventualmente i problemi costituzionali costituzionali aperti. Paolo Piacenza lo ha chiesto a Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale. Adesso la nuova sentenza, quella appena uscita, è una sentenza che semplicemente dichiara, se ho letto bene, inammissibile il ricorso fatto dalla Procura Generale contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Quindi quella, diciamo, che nel merito dice di più è la sentenza della Cassazione, quella precedente, quella di un anno fa circa. La sentenza di Cassazione, che come tutte le sentenze di Cassazione, indica un orientamento giurisprudenziale, ma è relativa solo a quel caso, non è che vincola i giudici per il futuro, per altri casi. A suo avviso, la sentenza di Cassazione, anche quella precedente, si è mossa in una traccia corretta? A me pare che la sentenza della Cassazione sia assolutamente corretta in tutta la parte in cui afferma l'esistenza di un diritto dell'interessato quando sia cosciente, quindi in grado di esprimersi su questi problemi del fine vita, delle cure in condizioni, nelle condizioni estreme di malattia, e quando afferma quindi che nel caso in cui l'interessato non sia in grado di esprimere la propria volontà, nessuno può sostituire la propria volontà a quella dell'interessato. L'ipotesi del cosiddetto testamento biologico è un'ipotesi che darebbe rilievo alla volontà espressa dell'interessato anticipatamente. In questo caso concreto non c'era nessun testamento biologico, e allora là la Cassazione diceva che si poteva accertare quale fosse l'effettiva volontà dell'interessata attraverso altri strumenti. Questa è la parte, diciamo così, più discutibile. A proposito di Costituzione, parliamo adesso di due presidenti a termine, partendo proprio da quello della Corte Costituzionale, Alessandra. Sì, il nuovo presidente Giovanni Maria Flick succede a Franco Bile, il cui mandato è scaduto lo scorso 8 novembre. A eleggerlo sono stati giudici a scrutinio segreto i 15 della Consulta. Dicevamo però che si tratta di un incarico a tempo, questo perché l'incarico di Giovanni Maria Flick alla Consulta scade il 18 febbraio del 2009, dunque rimarrà presidente, ma solo fino a quel momento. Sì, quindi praticamente solo per 3 mesi. Chi invece farà il presidente per soli 2 giorni e della commissione di vigilanza Rai è Riccardo Villari del Partito Democratico, che è stato eletto ieri appunto alla guida della commissione con il voto del centrodestra. La procedura prevede però che prima senta o veda i presidenti di Camera e Senato. Questo prima di dimettersi. Ma perché dovrebbe dimettersi? Allora, riepiloghiamo rapidamente la vicenda. Allora, la presidenza della commissione di vigilanza Rai è una carica che normalmente spetta all'opposizione, qualunque essa sia. Il candidato del centrosinistra questa volta era però Leoluca Orlando dell'Italia dei Valori, che era sgradito al centrodestra. Il voto su Villari ha dunque generato reazioni politiche durissime. Il segretario del PD Veltroni parla di regime, Di Pietro addirittura paragona Berlusconi al dittatore Videla. Stefano Folli, buongiorno. Buongiorno. Editorialista, commentatore del Sole 24 Ore. Allora, un candidato votato quasi a forza, potremmo dire, dal PDL e non dal PD, partito di cui lui fa parte, anzi precisiamo, dell'Italia, del Partito Democratico. Del Partito Democratico, come dicevamo. Certo, non ci capisce più. Non ci abbiamo più capito nulla a un certo punto. Allora, Stefano Folli, è uno strappo istituzionale? Ma è un colpo di mano, certo, è un colpo di mano parlamentare che ha messo in difficoltà il centrosinistra, perché è vero che l'opposizione deve indicare lei il candidato alla presidenza della commissione. D'altra parte si era creato anche una paralisi che andava avanti da mesi e mesi, perché c'era stato questo blocco dell'opposizione sul candidato di Di Pietro, Leoluca Orlando, che non era accettato dalla maggioranza e non votato, fino appunto allo strappo di ieri. Adesso che cosa può succedere? Probabilmente si dimetterà Villari. Se non lo facesse sarebbe una delegittimazione molto grave di tutto il vertice politico del Partito Democratico. Ecco perché. Beh, anche perché a più voci gli stanno chiedendo appunto al Partito Democratico che si dimetta, una situazione abbastanza paradossale. Non dimentichiamo che Villari ha avuto 2 voti in più ieri nella votazione che lo ha eletto Presidente della Commissione. Questi 2 voti sono franchi tiratori che sono venuti dal centrosinistra, quindi la situazione non è tanto semplice. All'interno del centrosinistra si sono create una serie di tensioni interne, di malumori, che hanno trovato un appiglio sul caso Villari. Ecco perché per Veltroni è essenziale che Villari si dimetta. D'altra parte, va anche detto che poche settimane fa il centrodestra cambiò il suo candidato alla Corte Costituzionale quando l'opposizione decise di non votare Pecorella. Lo cambiò. Allora adesso è un po', secondo me, curioso che a sinistra ci sia questo blocco su Orlando che non vuole essere votato dall'altra parte, dalla maggioranza. Sarebbe più logico che le dimissioni di Villari, che suppongo anch'io che ci saranno, siano accompagnate da un ritiro di Orlando in modo tale da permettere la scelta di un candidato che anche la maggioranza può votare. Se questo non avviene, si ricomincia col braccio di ferro. Certo, e in questo modo rispettare in qualche modo una forma di galateo istituzionale. Grazie Stefano Folli per averci aiutato a chiarire. Buona giornata. E come ogni venerdì, la rubrica dedicata alla sicurezza stradale. Oggi vi devo dare una brutta notizia che in realtà, insomma, è risaputa. L'Italia è il paese europeo più pericoloso per quello che riguarda la mobilità sulle due ruote ed è l'ultimo studio della Fondazione ANIA e secondo questo studio sono 1500 i morti per incidente stradale sulle due ruote in un decennio, nei 10 anni che vanno dal 1995 al 2004, cioè il 26% del totale dei morti, un bilancio che piazza l'Italia appunto come fanalino di coda nell'Unione Europea. Allora vorrei capire perché il nostro paese ha purtroppo questo record negativo con Silvio Scotti, comandante della Polizia Municipale di Monza ed esperto del Sole 24 Ore. Tu da addetto ai lavori, Silvio, che analisi fai su questo fenomeno? Dunque, io non credo francamente che si possa far risalire questi dati che sono terrificanti ad una singola causa. Credo che analizzando poi in realtà gli incidenti ci sia un concorso di circostanze. E tra l'altro è un concorso di circostanze che va soprattutto nel contro una certa utenza piuttosto debole, perché dobbiamo renderci conto che per quanto riguarda cicli e motocicli abbiamo a che fare con una situazione di esposizione all'urto e alle conseguenze piuttosto elevate. Quello per quanto riguarda il mezzo, può essere anche che perché il nostro è uno dei mercati più ricchi al mondo per vendita e circolazione delle due ruote, c'è questa antica passione. Non so. Sì, però io credo che dobbiamo tornare indietro, cioè dire che esistono delle situazioni dove le regole fondamentali per la sicurezza della circolazione sono ampiamente ignorate. Noi vediamo ancora tutt'oggi molte persone che circolano sprovviste del casco, no? E questo ovviamente espone a conseguenze molto gravi in caso di caduta, e vediamo anche che molte volte da parte di automobilisti che rappresentano la maggioranza degli utenti in circolazione, l'utente delle due ruote non è percepito come colui che è più soggetto a rischi, quindi non si riesce a capire che deve essere un utente da trattare con una particolare attenzione. Quindi ci vuole più prudenza da parte degli automobilisti che forse prendono un po' sotto gamba, fanno poca attenzione a chi è su due ruote, però dalla parte di chi guida cicli e motocicli bisognerebbe rispettare le regole come il casco, che ormai è obbligatorio da diverso tempo. Ma è tutto qua, Silvio Scotti, secondo te? No, credo che ci sia anche un difetto molto serio nella formazione. Noi dobbiamo spingere molto sulla formazione, sulla preparazione e soprattutto sulla percezione del rischio da parte dell'utente, perché noi soltanto poche volte ci soffermiamo a pensare quanto possa essere intrinsecamente pericolosa la circolazione stradale laddove non venga condotta responsabilmente. Grazie a Silvio Scotti e Roberta Giordano. Come sempre, a maggior ragione, vi invita a guidare con intelligenza. È recessione, secondo trimestre di PIL in calo, meno 0,9% rispetto ad un anno fa. Ora sacrifici, dice il presidente Napolitano. Per il presidente di Confindustria Marcegaglia non bisogna farsi prendere dal panico. I migliaia in piazza a Roma contro Italia all'università, capisco ma non cedo, dice la Gelmini. Dopo la rabbia delle parti civili per la sentenza sul G8 parla il sindaco di Genova Vincenzi, ci vuole un'inchiesta parlamentare. E un'altra decisione della giustizia fa discutere l'Italia, quella su Eluana Englaro, ora una legge, chiede il Partito Democratico. Due presidenti a termine, Giovanni Maria Flick alla guida della Corte Costituzionale fino a febbraio, Villari alla guida della Vigilanza Rai, ma solo fino a lunedì. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia e da Alessandra Tedesco, con in regia Peter Bescapè e al coordinamento Maria Piera Ceci. Ci risentiamo lunedì alle 13. GR 24, il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.